Abbiamo in collegamento con noi Michele Crocchiola di Movies Inspired, che ci parlerà del film Corpo e Anima, in uscita in sala giovedì 4 gennaio 2018. Intanto Michele, benvenuto a Visionari di Radio Onda Rossa e auguri. Auguri a tutti e a tutti gli ascoltatori a Onda Rossa. Allora, raccontiamo un po' brevemente la trama di questo lavoro. Ma la trama è proprio un incipit. Cosa succederebbe se due persone sognassero lo stesso identico sogno? È quello che succede ai due protagonisti del film. Non è un sogno simile o la stessa ambientazione, è proprio la stessa identica storia. E che si ripete, di essere due cervi. Che si ripete in più sogni, tra l'altro. Beh, adesso non svegliamo proprio tutto, però diciamo così che loro scoprono, okay, grazie a un caso, una psicologa che deve fare delle interviste, che sognano tutte le notti esattamente la stessa scena, sì. Ed evidentemente la scena è con due cervi, si vede anche nel trailer, quindi non vi sto spoilerando niente. Certo. Lui è il cervo maschio e lei è il cervo femmina, e quindi... cosa succede quando due persone condividono qualcosa di molto intimo come un sogno, e però non sono intimi, e quindi da lì parte una conoscenza reciproca, le due persone si avvicinano, cercano di capire anche, e diciamo si sviluppa tutta la trama partendo da questo presupposto. Devo dire che è un film da questo punto di vista molto originale. In questi casi si dice molto poetico, anche perché la regista ungherese si è ispirata a una poetessa ungherese per alcuni passaggi, ma soprattutto è un film molto originale. Ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino l'anno scorso e insomma ha fatto molto parlare di sé nei paesi dove è già uscito. Sì, sì. Ecco, a questo punto ti chiedo la vostra scelta distributiva e poi anche i risultati negli altri paesi, come è stato accolto. Ma allora, intanto, visto che siamo su Roma, siamo contentissimi a Roma di essere in super centro, siamo al Farnese, che ha curato e preparato il film, è un cinema amico, è un cinema, come si suol dire, fieramente indipendente, come fieramente indipendente la distribuzione Movies Inspired. In tutta Italia usciremo in tra le 40 e le 50 copie. In quest'oggi siamo ancora a chiudere, diciamo, tutta la distribuzione, quindi un'ottima uscita, molto molto costruita, molto strutturata. Per i primi di gennaio arriviamo dopo le feste, siamo un po' all'anticine panettone. È un film su cui puntiamo molto, perché poi non solo è un premio importante, ma è tra i finalisti per l'Oscar al miglior film straniero, è diventato questa settimana premio della critica italiana, quindi cioè, credo e spero ci sia molta attesa anche in giro per l'Italia, insomma. Sì. Ecco. Negli altri paesi è stato accolto bene, io non ho i dati adesso, quindi mi coglie assolutamente impreparato sui numeri. Però ero a Berlino l'anno scorso quando il film è stato premiato e i tedeschi in modo particolare l'hanno adorato, sì, assolutamente, sì, sì. Adorato. Senti Michele, a livello personale, quali sono gli elementi che più hai apprezzato del film? Allora, c'è una regia magnifica. Sì. È uno di quei film che io mi sentirei, se non so, se io e te fossimo al bar oggi e dovessimo decidere cosa andare a vedere, ti direi: guarda, andiamo a vedere Corpo e Anima, perché è uno di quei film da vedere al cinema su grande schermo, con queste immagini curate che ti colpiscono, che ti rimangono dentro. Quindi la prima cosa è questa enorme cura dell'immagine. Sì. La seconda è l'attrice, bravissima. Ha vinto anche come l'EFA, quindi l'Oscar europeo, come miglior attrice europea dell'anno. E io l'ho vista poi anche, come posso dire, in borghese in un certo senso, a Berlino, che sfilava sul tappeto. Nel film si è proprio trasformata. Sai, quando si dice actor studio, no? Gli americani sono bravissimi nel, sì, trasformare se stessi. Ecco, lei nel film è tutta un'altra persona, dal vivo è una persona super solare, invece lì è super timida, cerca in qualche modo di lavorare su su se stessa per tirare fuori l'amore che fino a quel momento non è riuscita a esprimere, e cerca di rapportarsi con quest'altro uomo che a sua volta ha difficoltà, perché immaginate voi di essere in una situazione di questo genere, di condividere un sogno con un perfetto sconosciuto. Quindi attrice e regia, fotografia anche molto molto belle. Io aggiungo, visto che ho avuto modo di apprezzarlo anch'io, l'originalità, per chi è abituato a vedere film su film è difficile anche rimanere sorpresi, e questo è uno di quei casi, insomma. Sì, abbiamo fatto un'anteprima qualche giorno fa, due anteprime anzi, a Firenze e Torino, e la cosa che più ci ha colpito è che il pubblico è uscito e tutti, tra amici, coppie eccetera, ne parlavano. Ed era proprio quella dimensione cinematografica di socialità, no? Che vai a vedere un film e poi non esci a testa bassa, dici vabbè, ho passato due ore e basta, ma ti viene di riflettere, di parlarne col vicino, di dire hai mai notato questo, ma secondo te come succederebbe? Ecco, questo è indice di un film che non lascia indifferenti, originale, come dicevi tu. Michele, nel salutarci, per chi volesse saperne di più, ci lasci dei riferimenti web? Allora, assolutamente, la nostra pagina Facebook, cercate Movies Inspired, che è assolutamente il canale privilegiato, perché è interattivo, quindi scriveteci commenti, chiedeteci la copia in lingua originale, alcuni cinema, tra cui il Farnese, faranno anche la versione originale, insomma, Facebook assolutamente il primo canale. Poi ovviamente abbiamo il sito moviesinspired.it e lì ci trovate. Benissimo. Chiedeteci film, chiedeteci di portarne anche altri, i prossimi, soprattutto il prossimo che uscirà a febbraio, è molto molto bello. Vi lascio con questo anticipo, magari tenete d'occhio un film che si chiama Omicidio al Cairo. Magari avremo modo di parlarne. Un abbraccio, a risentirci presto e ancora auguri. Bene, auguri a tutti. Ciao Michele, ciao. Ciao, ciao, ciao. Michele Crocchiola di Movies Inspired, sulla distribuzione del film E Corpo e Anima, in uscita in sala giovedì 4 gennaio 2018.